in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale, che però oggi potrebbe sembrare, almeno dall'inizio, ancora quella europea, perché ho scelto un bellissimo articolo comparso su Bloomberg View, scritto da Ferdinando Giuliano, che è una specie di enfant prodige del giornalismo economico. Era stato assunto da Financial Times quando era ancora veramente giovanissimo, anche per standard italiani. Poi ha fatto un passaggio in Italia, è tornato in Italia. Ferdinando è italiano, ha anche scritto un bellissimo libro sui giornali italiani, sui media italiani. È stato per qualche tempo a Repubblica, poi forse ha capito che forse il giornalismo anglosassone gli è più affine, e così appunto adesso scrive per Bloomberg View. Il suo ultimo articolo, "L'Europa e il nuovo presidente francese, Macron riuscirà a realizzare il sogno della generazione Erasmus", è stato poi tradotto da Vox Europe e lo potete trovare appunto in italiano, e ve ne leggo una piccola parte. "Un anno e mezzo fa, insieme a un'altra dozzina di giornalisti, partecipai a un pranzo nella residenza dell'ambasciatore francese a Londra. L'ospite d'onore era Emmanuel Macron, all'epoca ministro dell'economia, che aveva attraversato la Manica per promuovere il suo paese come meta di investimenti per banche e imprese di alta tecnologia. Quel che mi colpì di più di quell'uomo, che il 7 maggio è diventato il più giovane presidente della Repubblica francese di sempre, non furono tanto la sua sconfinata ambizione o la sua accademica attenzione per i dettagli, fu piuttosto il suo sfacciato europeismo, che un anno dopo è diventato uno dei tratti distintivi del programma presidenziale". E da qui naturalmente giunge poi appunto alla conclusione che Emmanuel Macron, rappresentante della generazione Erasmus, come del resto hanno sottolineato anche molti all'indomani della sua elezione a presidente francese, potrebbe davvero essere il salvatore del sogno europeo o della stessa Unione Europea, visto che nel frattempo stiamo anche aspettando invece il concretizzarsi della Brexit. Ormai è passato quasi un anno dal referendum del 23 giugno 2016 che ha decretato che la maggior parte, anche se con una maggioranza risicata, dei cittadini del Regno Unito desiderano appunto uscire dall'Unione Europea, e ora l'8 giugno si voterà nel Regno Unito perché la Premier May vuole un mandato più forte per negoziare la Brexit, e poi vedremo appunto come prenderà forma questa Brexit, che comunque la si voglia vedere, è stato un duro colpo al sogno europeo / Unione Europea. Passiamo alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che si è invece dedicata alla Grecia, perché Gabriel Sigmund, che è ministro degli esteri del governo della cancelliera Merkel, ha rilasciato un'intervista alla Süddeutsche Zeitung in cui parla della Grecia e dice: "Sono state fatte più volte promesse di un alleggerimento del debito pubblico, ma una volta che Atene avesse approvato le riforme. Adesso, siccome Atene ha approvato queste riforme lacrime e sangue", dice lo stesso Sigmund, "dobbiamo mantenere quelle promesse". E ha anche aggiunto il politico tedesco che la maggior parte dei paesi dell'area dell'euro è favorevole a questa iniziativa, e lo è anche il Fondo Monetario Internazionale. "Non dobbiamo permettere che questo fallisca per eventuali resistenze tedesche", sottointese non del mio governo o non comunque degli esponenti che la pensano come me, perché sapete che in Germania in questo momento il governo è una grossa coalizione, ci sono esponenti con posizioni politiche anche leggermente diverse. Poi una notizia che viene sempre dalla Germania ma riguarda anche noi, è stata anche ripresa dai giornali italiani questa intervista, questa notizia / intervista che il amministratore delegato di Intesa San Paolo, che è la più grande banca italiana, ha concesso alla Börsen-Zeitung, che è un quotidiano finanziario tedesco, dove ha parlato di molte cose ma anche di Alitalia. E ha detto, adesso naturalmente poi sapete che la vicenda all'Italia è tutta ancora da definire, quindi vedremo appunto poi come si concretizzeranno queste dichiarazioni. Comunque Messina ha detto che Intesa San Paolo non intende più entrare nel capitale di Alitalia, però è disposta a intervenire come finanziatore a condizione che vi sia un piano industriale valido, che per ora, lo ricordiamo, non si è visto. Dice Messina in questa intervista alla Börsen-Zeitung: "Quando anni fa abbiamo acquisito acquisito circa il 13% delle azioni Alitalia, eravamo convinti del nuovo piano industriale, ma non è stato possibile attuare quel business plan che era stato messo a punto insieme a Etihad, il socio degli Emirati Arabi. Nel frattempo abbiamo completamente svalutato la quota di Alitalia. Non siamo disponibili a intervenire in qualità di azionista della nuova Alitalia. Cambiamo completamente argomento perché Le Monde, invece, il quotidiano francese, credo che sia rimasto l'unico in Europa a essere in versione di carta, naturalmente un quotidiano del pomeriggio, ha parlato di questa strana vicenda del quartiere Chapelle-Parole nel nord di Parigi, che è diventato, scrive Le Monde, un incubo per buona parte delle donne, perché tanto che due associazioni hanno proprio lanciato una petizione, la Chapelle Payol, le donne, specie in via di estinzione nel cuore di Parigi, per attirare l'attenzione sul problema. Una parte del quartiere, infatti, è in mano agli uomini, ambulanti, migranti, venditori e purtroppo anche spacciatori. Sono tantissimi in strada e quando una donna passa davanti a loro, addirittura una buona dose di insulti o di commenti pesanti e lascivi. E da qui appunto Le Monde, ma anche altri quotidiani francesi, hanno parlato di questo quartiere, della petizione, e Le Monde ha intervistato una delle promotrici di questa petizione. Non abbiamo mai detto che una donna non poteva uscire, ma che siamo costrette a causa del comportamento degli uomini a evitare certi luoghi e che questo ci condiziona. Cambiamo ancora paese, cambiamo anche giornale, in questo caso da El País, parliamo di quello che potrebbe essere un altro referendum di rottura, un altro referendum su un divorzio, che potrebbe essere quello della Catalogna dalla Spagna. Però, scrive El País, continua a calare l'appoggio dei catalani per la secessione, e sarebbe sceso al 42%, però si fa sempre più critico lo scontro fra il governo indipendentista di Barcellona e quello centrale di Madrid. Stando al sondaggio, il 42% dei catalani si pronuncerebbe per un sì a un referendum sull'indipendenza, il 49% è per un no, ed è il livello più basso dall'ottobre del 2015. Vedremo, perché tra l'altro per ora non è nemmeno stata annunciata una possibile data per questo referendum. Passiamo a Financial Times. In questo caso il quotidiano della City si è concentrato sulle banche d'affari americane, le grandi banche americane che hanno molto questo ruolo di banca d'affari, più che appunto banche di sportello, Goldman Sachs e JP Morgan Chase, che hanno abbassato le aspettative sull'andamento dei rendimenti dei bond americani nel corso dell'anno. Ora capisco che è un argomento questo dei bond americani, equivalente dei nostri bot e di altri titoli di Stato in altri paesi, un po' ostico, che può sembrare così lontano dagli interessi di tutti noi. In realtà la politica monetaria americana, che quindi si riflette sui rendimenti di questi titoli, siccome gli Stati Uniti insieme alla Cina sono le due economie più grandi del pianeta, comunque avrebbero poi delle conseguenze su tutti noi. E siccome sappiamo che anche in Europa la politica monetaria del quantitative easing di Mario Draghi potrebbe cambiare nel corso del 2017 o del 2018, sono temi che magari così, giusto accennarli, conviene sempre. Torniamo in Germania e passiamo alla Tageszeitung, un quotidiano tedesco, appunto, che ha pubblicato un editoriale che trovate tradotto su Internazionale, che si intitola «Lobbisti sconfitti». Brutte notizie per i fan del libero scambio illimitato, scrive Ulrike Hermann. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che gli accordi di libero scambio dell'Unione devono essere ratificati anche dai parlamenti nazionali, soprattutto se prevedono le contestate clausole di protezione degli investimenti. Una sentenza attesa. Quindi aggiungo io, ridendo, perché questa settimana ne abbiamo lette altre di particolarmente bizzarre, attesa, non come quelle del nostro dei nostri TAR, che a volte veramente se ne escono con sentenze direi particolarmente inattese. Questa della Corte Europea invece attesa lo era, ma può avere conseguenze importanti. Conclude Ulrike Hermann: la questione è molto semplice. I paesi europei sono stati di diritto, come gli Stati Uniti e il Canada. I tribunali speciali per le aziende multinazionali sono quindi superflui. E poi vi segnalo due articoli che ci riguardano e che sono, riguardano l'Italia, che sono lusinghieri, ed è sempre un piacere quando appunto si vede che dall'estero siamo visti bene e non male. Uno l'ha pubblicato il New York Times e si intitola Il fascino di Genova. Non è Firenze, Roma o Venezia, non ci sono rovine millenarie, imperdibili o tappe obbligate di un itinerario rinascimentale, ed è proprio questo il bello della città. E così consiglia a tutti di appunto visitare Genova. Altra città di mare, Venezia, vista invece dal punto di vista della Biennale, l'Economist scrive che la Biennale di Venezia, che come sapete ad anni alterni si dedica o all'arte o all'architettura, questo è l'anno dell'arte, è l'evento più importante al mondo dedicato all'arte contemporanea e deve il suo prestigio anche al fatto che non c'è un unico finanziatore che controlla la manifestazione. Era l'ultima segnalazione per oggi. Sabato prossimo non ci ritroveremo perché non sarò a Milano, ma quello successivo senz'altro sì. Buon sabato a tutti.